A Planck, Kahleil Sorelli. A Planck, Kahleil Sorelli, da ur di un alte mont, ne grande pa saregne, che par un sium profond, e li spiorutis, mangin gli arbutis, ca son là. Il topin sir, oh biele, qui sa la calzarà.